Il brano che stavano suonando poteva finire da un momento all'altro e io potevo essere costretto a entrare nel salotto. Così mi sforzavo di veder chiaro il più in fretta possibile nella natura dei piaceri identici che avevo provato per 3 volte nel giro di pochi minuti e poi di capire quale insegnamento ne dovessi trarre. Non mi soffermavo sull'enorme differenza che c'è fra l'impressione vera avuta da una cosa e l'impressione artificiosa che ne diamo a noi stessi quando cerchiamo volontariamente di rappresentarcela. Ricordando bene con quale indifferenza relativa Swan aveva potuto parlare un tempo dei giorni in cui era amato, perché sotto quella frase egli vedeva qualcosa di diverso da essi, e il dolore repentino suscitato in lui dalla piccola frase di Vinteuil, che gli restituiva invece quegli stessi giorni quali li aveva allora sentiti. Capivo sin troppo bene che quanto la sensazione delle selci ineguali, la rigidità del tovagliolo, il sapore della Madeleine avevano risvegliato in me non aveva alcun rapporto con quanto io cercavo spesso di ricordarmi di Venezia, di Balbec, di Combray con l'aiuto d'una memoria uniforme. E capivo come la vita potesse venir giudicata mediocre, sebbene in altri momenti apparisse così bella, giacché nei primi la si giudica e la si svaluta su tutt'altro che sulla vita stessa, su immagini che della vita non servano nulla. Al massimo osservavo accessoriamente che la differenza fra ciascuna delle impressioni reali, differenze che spiegano come una pittura uniforme della vita non possa essere somigliante, aveva probabilmente questa causa: che la minima parola da noi detta in un periodo della nostra vita, il gesto più insignificante da noi compiuto, erano circondati, portavano su di sé il riflesso di cose che dal punto di vista logico non avevano con essi alcun rapporto, che ne sono state separate dall'intelligenza, che non sapeva che farsene di loro per le necessità del ragionamento, ma in mezzo alle quali, qui il riflesso rosato della sera, sul muro fiorito d'un ristorante di campagna, sensazione di fame, desiderio di donne, piacere del lusso, là volute azzurre del mare mattutino ad avvolgere frasi musicali che ne emergono parzialmente come le spalle delle ondine, il più semplice dei gesti, degli atti, rimane racchiuso come in 1000 vasi riempiti ciascuno di cose d'un colore, d'un odore, d'una temperatura assolutamente diversi, senza contare che questi vasi, disposti lungo tutta l'altezza dei nostri anni, anni durante i quali non abbiamo mai smesso di cambiare, fosse solo nel sogno e nel pensiero, sono situati a quote molto diverse e ci danno la sensazione di atmosfere singolarmente variate. È vero che li abbiamo fatti, questi cambiamenti, in modo insensibile, ma fra il ricordo che ci torna repentinamente e il nostro stato attuale, così come fra 2 ricordi di anni, di luoghi, di ore differenti, c'è una tale distanza che basterebbe, anche in assenza di un'originalità specifica, a renderli incomparabili fra loro. Sì, se il ricordo, grazie all'oblio, non ha potuto contrarre nessun legame, gettare nessuna catena fra sé e l'istante presente, se è rimasto al suo posto, alla sua data, se ha mantenuto le sue distanze, il suo isolamento nella profondità d'una valle o in cima ad una vetta, ci fa respirare di colpo un'aria nuova per la precisa ragione che è un'aria respirata in altri tempi, quell'aria più pura che i poeti hanno cercato invano di far regnare nel paradiso e che non potrebbe dare la sensazione profonda di rinnovamento che ci dà se non fosse già stata respirata, giacché i veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduti. e pensavo, di passaggio, che in quell'opera d'arte che ormai, pur senza averlo deciso coscientemente, mi sentivo pronto a intraprendere, si sarebbero presentate grosse difficoltà. Avrei dovuto, infatti, eseguirne le parti successive con una materia in qualche modo diversa, e quella adatta ai ricordi di mattinate in riva al mare o di pomeriggi a Venezia. Non sarebbe stata tale se avessi voluto dipingere le sere di Rivebelle, quando nella sala da pranzo, aperta sul giardino, il caldo cominciava a decomporsi, a ricadere, a depositarsi, e un ultimo chiarore illuminava ancora le rose sui muri del ristorante, mentre gli ultimi acquerelli del giorno erano ancora visibili in cielo, con una materia distinta, nuova, d'una trasparenza, d'una sonorità, speciali, compatta, rinfrescante e rosata. Sorvolavo rapidamente su tutto questo, più imperiosamente sollecitato com'ero alla ricerca le altre volte rimandata, della causa di tale felicità, del carattere di certezza con cui essa si imponeva. E la indovinavo, tale causa, paragonando fra loro quelle diverse impressioni felici che avevano in comune il fatto ch'io le provavo tanto nel momento attuale quanto in un momento lontano: rumore del cucchiaio sul piatto, dislivello delle selci, sapore della Madeleine, sino a far rifluire il passato nel presente, a non sapere con certezza in quale dei due mi trovassi. In verità, l'essere che assaporava allora in me quell'impressione la assaporava in ciò che essa aveva di comune in un giorno trascorso e ora, in ciò che aveva di extratemporale. Un essere che appariva soltanto quando, grazie a una di tali identità fra il presente e il passato, gli era dato stare nel solo ambiente in cui potesse vivere e godere dell'essenza delle cose, ossia al di fuori del tempo. Ecco perché le mie inquietudini riguardo alla mia morte erano finite nel momento in cui avevo riconosciuto inconsciamente il sapore della piccola Madeleine, perché in quel momento l'essere che ero stato era un essere extratemporale e dunque incurante delle vicissitudini del futuro. Non viveva che dell'essenza delle cose e non poteva coglierla nel presente, dove, non entrando in gioco l'immaginazione, i sensi non potevano fornirgliela. Lo stesso futuro verso cui si tende l'azione ce l'abbandona. Questo essere non era mai venuto a me, non si era mai manifestato che al di fuori dell'azione, del godimento immediato, ogni volta che il miracolo di un'analogia mi aveva fatto sfuggire al presente. Lui solo aveva il potere di farmi ritrovare i giorni passati, il tempo perduto, davanti a cui gli sforzi della mia memoria e della mia intelligenza erano sempre vani. E forse, se ancora poco prima ero convinto che Bergotte avesse detto qualcosa di non vero parlando delle gioie della vita spirituale, era perché allora io chiamavo vita spirituale dei ragionamenti logici che non avevano alcun rapporto con essa, con ciò che c'era dentro di me in quel momento, esattamente come avevo potuto trovare noiosi il mondo e la vita perché li giudicavo sulla base di ricordi privi di verità, mentre avevo una tale voglia di vivere ora che un vero momento del passato era rinato a tre riprese dentro di me. Solo un momento del passato, molto di più, forse, qualcosa che comune al passato e al presente è molto più essenziale di entrambi. Tante volte nel corso della mia vita, la realtà mi aveva deluso perché, nel momento in cui la percepivo, la mia immaginazione, che era il solo organo di cui disponessi per godere della bellezza, non poteva applicarsi ad essa, in virtù della legge inderogabile secondo la quale si può immaginare solo ciò che è assente. Ed ecco che gli effetti di questa dura legge erano stati improvvisamente neutralizzati, sospesi da un meraviglioso espediente della natura, che aveva fatto balenare una sensazione, rumore della forchetta e del martello, stesso titolo di libro, eccetera, contemporaneamente nel passato, il che permetteva alla mia immaginazione di assaporarla, e nel presente, dove la scossa effettiva data ai miei sensi dal rumore, dal contatto del tovagliolo, eccetera, aveva aggiunto ai sogni dell'immaginazione ciò di cui essi sono abitualmente sprovvisti, l'idea d'esistenza. E grazie a questo sotterfugio aveva consentito al mio essere di ottenere, di isolare, di immobilizzare, per la durata d'un lampo, ciò che non gli è mai dato d'afferrare. Un po' di tempo, allo stato puro. L'essere che era rinato in me quando con un tale fremito di felicità avevo sentito il rumore identico del cucchiaio che tocca il piatto e del martello che batte sulla ruota, l'ineguaglianza al passo delle selci del cortile Germain e del battistero di San Marco, eccetera. Quell'essere non si nutre che dell'essenza delle cose, in essa soltanto trova la propria sostanza, le proprie delizie. Langue nell'osservazione del presente, dove i sensi non possono fornirgliela, nella considerazione di un passato disseccato dall'intelligenza, nell'attesa di un futuro che la volontà costruisce con frammenti del presente e del passato, cui, per di più, sottrae parte della realtà, non conservandone che quanto conviene al fine utilitario strettamente umano, che essa attribuisce loro. Ma basta che un rumore, un odore, già sentito o respirato un'altra volta, lo siano di nuovo, a un tempo nel presente e nel passato, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, ed ecco che l'essenza permanente e abitualmente nascosta delle cose è liberata. E il nostro vero io, che da molto tempo, a volte, sembrava morto, ma non lo era del tutto, si sveglia, si anima, ricevendo il nutrimento celeste che gli viene offerto. Un istante, affrancato dall'ordine del tempo, ha ricreato in noi, per sentirlo, l'uomo affrancato dall'ordine del tempo. Ed è comprensibile che questi creda nella propria gioia, anche se non sembra logicamente possibile che il semplice sapore di una Madeleine contenga le ragioni di tale gioia. È comprensibile che la parola morte non abbia più senso per lui, situato al di fuori del tempo. Cosa mai potrebbe temere dal futuro? Ma questo inganno ottico, che metteva accanto a me un momento del passato incompatibile con il presente, questo inganno ottico non durava. Si possono prolungare, certo, gli spettacoli della memoria volontaria, che non impegna in noi più forze interiori che sfogliare un libro di immagini. Così, per esempio, in altri tempi, il giorno che dovevo andare per la prima volta a far visita alla principessa di Germain, dal cortile pieno di sole della nostra casa di Parigi, e avevo pigramente contemplato, a mia scelta, ora la piazza della chiesa di Combray, ora la spiaggia di Balbec, così come avrei potuto illustrare la bella giornata sfogliando un album di acquerelli eseguiti nei vari posti dove ero stato. E con un piacere egoistico, da collezionista, mi ero detto, catalogando in quel modo le illustrazioni della mia memoria, ne ho pur viste di cose belle nella mia vita. Allora la mia memoria affermava, certo, la differenza delle sensazioni, ma non faceva che combinare fra loro elementi omogenei. Le cose erano andate diversamente con i tre ricordi che avevo appena avuti e nei quali, anziché farmi un'idea più lusinghiera del mio io, avevo al contrario quasi dubitato della sua realtà attuale, allo stesso modo di quando avevo intinto la Madeleine nella tisana calda, in qualsiasi luogo io mi trovassi, fosse come quel giorno la mia camera di Parigi, o oggi, in quel momento, la biblioteca del principe di Guermantes, o poco prima il cortile del suo palazzo. C'era stata in me e aveva irradiato una piccola zona intorno a me, una sensazione, sapore della Madeleine intinta, rumore metallico, sensazione del passo, comune al luogo in cui mi trovavo e a un altro luogo, camera della zia Octave, scompartimento ferroviario, battistero di San Marco,